Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci, è il giorno del debutto in Europa per l'Italia e per Matteo Renzi. Il Premier fra poco interverrà all'Assemblea plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo per illustrare il programma del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Grande attesa dunque per le parole di Renzi e noi ci colleghiamo con Strasburgo e con il nostro inviato Sergio Nava. Sergio. Sì, buon pomeriggio, mi trovo esattamente all'esterno del Parlamento, dell'edificio del Parlamento Europeo qui a Strasburgo, dove a momenti è atteso l'arrivo del Premier Matteo Renzi che parlerà alle 15 in plenaria di fronte ai 751 eurodeputati. È in leggero ritardo il Premier, doveva arrivare circa un quarto d'ora fa ma ancora non si è fatto vivo. Dovrà incontrare prima gli eurodeputati italiani, poi incontrerà anche il Presidente dell'Assemblea Schulz e poi appunto il discorso alle 15. Noi questa mattina abbiamo intervistato alcuni eurodeputati italiani proprio su questa apertura di semestre qui a Strasburgo. Partiamo da Alessandra Moretti, che è deputata PD nonché ex capolista nel corso delle elezioni europee. Abbiamo chiesto ad Alessandra Moretti quali saranno le priorità del semestre italiano che presenterà oggi Renzi. Sentiamo. Più flessibilità, meno rigore, più crescita e sviluppo, grandi risorse dei fondi strutturali per l'innovazione tecnologica, la green economy, un lavoro importante sul sistema della giustizia. Questi saranno i temi che Renzi credo affronterà, ma il primo tema su cui noi ci impegneremo e che l'Italia vorrà mettere al centro dell'agenda politica europea è quello dell'occupazione, quindi la lotta forte alla disoccupazione giovanile, alla disoccupazione femminile e la lotta forte alle disuguaglianze. Mi auguro anche una cosa, cioè noi dobbiamo e riusciremo a portare avanti questi obiettivi se saremo credibili in Europa come Italia, e l'Italia sarà credibile e autorevole nella misura in cui dimostrerà all'Europa e al mondo di rinnovare se stessa. Questa dunque è Alessandra Moretti, eurodeputata del PD. Sergio, si sa qualcosa del discorso di Renzi che pronuncerà fra meno di un'ora? Ma al momento ancora lo ha limato, lo sappiamo questo, nel corso della fine settimana sicuramente chiederà più Europa. C'è un approccio, tra virgolette, anche un po' più federalista nella sua visione del continente, poi chiaramente economia con la maggiore flessibilità nei conti e soprattutto immigrazione, questi saranno forti temi, però al momento ancora è abbastanza top secret. Vi facciamo invece ora ascoltare l'eurodeputata di Forza Italia PPE Lara Comi. Abbiamo chiesto quale sarà l'accoglienza che Forza Italia riserverà alla Premier. Sentiamo. Da italiano, da parte di italiani, senza problemi, senza colore politico, noi vogliamo assolutamente ottenere e raggiungere degli obiettivi, lo si fa solo con un gioco di squadra. Appoggerete la sua battaglia per una maggiore flessibilità anche all'interno del Parlamento europeo? Ecco, questo è un punto che Renzi dovrà spiegare, perché se lui parla di una flessibilità all'interno del patto di stabilità non ha detto nulla di nuovo, se invece parla di una flessibilità sforando il patto di stabilità avrà tutto il nostro appoggio. Ecco, Sergio Nava, torniamo un attimo su quanto accaduto ieri quando molti europarlamentari si sono voltati al suono dell'inno alla gioia. Ecco, su questo tu hai delle interviste, perché invece i deputati 5 Stelle come si sono comportati? Beh, infatti appartengono allo stesso gruppo dello UKIP, cioè i deputati anti-euro di Nigel Farage, però loro a differenza degli inglesi hanno assistito, insomma, in modo anche degno e decoroso all'esecuzione dell'inno europeo. Allora noi abbiamo chiesto a Laura Ferrara, che è un'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, il perché di questo atteggiamento invece non contestatore, e soprattutto quanto e se durerà questa alleanza con il controverso leader britannico Farage. Sentiamo. Noi siamo europeisti con la nostra idea di Europa, che, ripeto, coincide con quella voluta dai suoi padri fondatori, per cui se è un inno che rimanda a quel concetto di Europa, non vedo perché non onorarla. Resterete un Farage, perché ci sono le sirene dei Verdi, si dice da un po' di tempo, che vi richiamano e richiamano il vostro gruppo. Da qui a 5 anni sarete ancora con lui o potrebbe esserci uno spostamento? Non è un mistero, noi siamo molto vicini ai Verdi per quanto riguarda le tematiche ambientali. Questo in linea teorica, in linea pratica, ecco, nel momento in cui si vogliono portare delle progettualità comuni in relazione all'ambiente, ecco, collaboreremo anche con i Verdi. Questa dunque Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Noi ringraziamo il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, novità, si è visto Renzi negli ultimi minuti? No, niente. C'è solo un po' di movimento, un autobus che si è messo di mezzo davanti all'entrata e quindi sta paradossalmente pure ostacolando l'entrata, ma Renzi continua a essere abbastanza, diciamo. E allora ti lasciamo libero, così potrai seguire l'arrivo di Renzi. Naturalmente poi ci aggiornerai nel corso della giornata sul suo intervento. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.